A bordo campo di Dario Ricci. Siamo ad Atene e di fronte ai nostri occhi, da questo balcone, c'è lo stadio olimpico, lo stadio dell'architetto Calatrava che nel 2004 ha ospitato le grandi olimpiadi ateniesi. Il nostro ospite è il presidente del Comitato Olimpico Ellenico, il dottor Capralos. Grazie per essere ospite di Radio 24 oggi qui ad Atene. Grazie a voi per l'interesse. Siamo nel cammino verso Londra 2012, l'appuntamento importante, olimpiadi che tornano in Europa proprio dopo Atene, un momento molto difficile per lo sport greco, vista anche la crisi economica, vero? È vero, sono momenti difficili, non solo per lo sport greco, ma per tutta la Grecia. L'economia greca ha dei grandi problemi. Questi problemi era inevitabile che arrivano sullo sport greco, però abbiamo già più di 85 atleti già qualificati per Londra, abbiamo la possibilità di qualificare ancora la squadra di pallacanestro e credo che la nostra squadra a Londra sarà più o meno 100 atleti. Quello che è sulle condizioni che viviamo questi ultimi 3 anni è una cosa molto importante, perché vuol dire che lo sport greco ha potuto arrivare a questo momento che è un momento molto difficile. Quali sono le speranze di medaglia di questa squadra, di questa spedizione? Da appassionato di basket dico che se sarete qualificati forse al podio ci si può anche sperare. Non è solo il pallacanestro, perché anche noi siamo appassionati del pallacanestro, però credo che abbiamo più chance su altri sport, specialmente sul rowing, canottaggio, che dopo i giochi di Atene di 2004 è diventato un sport che ha avuto una grande crescita e un grande sviluppo. E poi abbiamo anche altri sport, sul judo, sulla ginnastica, sul nuoto di lunghe distanze. Abbiamo tante possibilità di avere delle medaglie. Il nostro obiettivo è di avere più medaglie di quelle che abbiamo avuto a Pechino. A Pechino abbiamo avuto 4 medaglie. Io spero di avere 6 medaglie a Londra. Ecco, il nome su cui scommetterebbe della spedizione greca, il campione su cui puntare? Se dovevo scommettere su una medaglia, lo farei per il canottaggio, il doppio delle donne, che sono campionesse mondiali le ultime 2 volte, e credo che lì avremo le più grandi possibilità. Però abbiamo anche altri atleti e sono sicuro che arriveremo a un risultato più positivo di quello di Pechino. Ecco, parlavamo della crisi e delle sue conseguenze sul cammino verso Londra. Ad esempio il presidente della Federatletica nelle settimane scorse ha sospeso di fatto gli allenamenti per mancanze di fondi. Quali sono i problemi che state affrontando? Il più grande problema è il problema finanziario. Senz'altro il governo e lo Stato ha diminuito i soldi che dava per lo sport in generale. Questo vuol dire anche che per lo sport di alto livello i soldi sono mancati. E noi come Comitato Olimpico, che abbiamo la responsabilità dello sport di alto livello, non abbiamo avuto aiuto dalla parte del governo. Abbiamo dovuto lavorare per ricevere degli sponsor, però in momenti difficilissimi dell'economia è difficile anche trovare le società che danno soldi per lo sport di alto livello. Però abbiamo avuto successi, i nostri atleti non sono rimasti senza soldi. Abbiamo avuto la possibilità di aiutare le federazioni, di mandare gli atleti dove si doveva mandarli per la qualificazione. Per esempio può dire che la squadra di vela è andata a Perth in Australia, la squadra di ginnastica è andata a Tokyo, e poi tutti gli altri atleti per qualificarsi, perché uno deve mandare gli atleti dappertutto. Però è sicuro che i soldi non bastano e che sicuramente la preparazione dei nostri atleti di alto livello non è stata al livello che volevamo averle. Questa situazione politica dopo queste elezioni potrà avere altre conseguenze sul cammino verso Londra, e se sì, quali, in questa situazione di incertezza? Questa incertezza politica non aiuta, però per la squadra di Londra non cambia qualsiasi cosa. Questo che ho paura che può cambiare sono le cose per il futuro dello sport greco. Ho paura che i soldi sarà una situazione ancora peggiore. Ho paura che per Rio 2016 i problemi saranno grossissimi, molto più gravi di quelli che abbiamo avuto adesso. Per la squadra di Londra non c'è qualsiasi problema. Abbiamo già dichiarato, e questo no, è sicuro, che tutti gli atleti che avranno le qualificazioni per Londra andranno a Londra senza nessun problema. Sarebbe bello in qualche sport battere i tedeschi, eh? Lo sport non è politica. Per noi non è una questione battere i tedeschi o battere gli italiani. È una cosa che una noble competition, chi è il migliore che guadagna. E credo che non c'è niente con i tedeschi, con gli inglesi, con i francesi. Siamo tutti lì, uomini e donne dello sport. Ognuno fa il suo dovere, il miglior che può fare per vincere. Siamo qui di fronte a questo stadio, a questo palazzo dello sport. C'è qualche rimpianto per quelle Olimpiadi? Oggi molti dicono che fu uno sforzo economico grandissimo che la Grecia sta pagando ancora. È proprio così, o è convinto che quelle Olimpiadi è stato giusto farla? Sicuramente è stato un lavoro per la Grecia molto più importante e molto più grande di quello che ogni paese che organizza i Giochi Olimpici, perché per noi non era solo di organizzare i Giochi Olimpici, ma i Giochi Olimpici sono stati la scusa per fare tanti investimenti di infrastruttura che il paese Atene aveva veramente bisogno. Un paese che vive dal turismo non può non avere un aeroporto, non può non avere delle telecomunicazioni a livello, non può avere alberghi, non può non avere delle metro, non può non avere delle strade per arrivare dall'aeroporto al centro. Allora, per la Grecia è stato un grande sforzo, che è molto pesante economicamente, però era una cosa che non sono buttati soldi fuori. Ognuno di noi che viviamo su questo paese utilizziamo ogni giorno tutte queste infrastrutture che non sono fatte solo per i Giochi Olimpici, ma sono fatte per la via quotidiana dei Atenieni. Dall'altra parte sono stati anche soldi buttati via, sono stati dei soldi per le infrastrutture sportive, dove non c'era un piano concreto di quello che faceremo con questi impianti sportivi dopo i Giochi Olimpici, specialmente per quelli che sono per sport che non sono popolari in Grecia e che non c'è futuro in Grecia. Lì abbiamo sbagliato, però non dobbiamo criticare i Giochi Olimpici per la situazione economica della Grecia oggi. Se i giochi hanno costato al popolo greco, diciamo, 8 miliardi di euro, su un paese che ha dei debiti di 360 euro, quello è come un sassolino su una montagna. Allora credo che non sono i Giochi Olimpici responsabili per la situazione economica. Dobbiamo pensare dove è la responsabilità, ma non è il sport e i Giochi Olimpici. Senta, c'è dal punto di vista sportivo un'immagine particolare di quei giochi, di quelle Olimpiadi, che conserva nella mente e nel cuore? Per me sono stati 20 giorni della mia vita che non potrò mai dimenticare. È stata una cosa bellissima che la Grecia ha potuto organizzare un spettacolo bellissimo senza problemi invece tutto il mondo prima dei giochi pensava che non potevamo farcela, e invece sono stati dei giochi bellissimi. Ognuno che è venuto ad Atene da fuori ha detto che ha delle memorie bellissime di questi giochi, e per me è sempre stato il momento dello sport che è indimenticabile, il momento che abbiamo avuto dei momenti di gloria e abbiamo avuto anche dei momenti di difficoltà. Credo abbiamo cominciato malissimo con la storia di Kenteris e Thanu, e poi abbiamo finito bellissima con tante medaglie per lo sport greco. E allora, presidente Spiros Capralos, grazie per essere stato il nostro ospite qui a Radio 24 a Bordo Campo, e un grande in bocca al lupo alla Grecia verso le Olimpiadi di Londra 2012, e soprattutto in questo momento così difficile, un forza Grecia che arriva anche dall'Italia. Grazie tanto per i nostri amici italiani, abbiamo una grande amicizia con lo sport italiano, con CONI, con la gente e anche personalmente con l'allenatore della squadra di pallanuoto italiana, Sandro Campagna, che ha lavorato in Grecia. Abbiamo giocato insieme a pallanuoto tanti anni fa, e spero che l'Italia vincerà l'oro e che può perderla solo se arriva alla finale Grecia contro Italia. Allora ci vediamo a Londra in finale di pallanuoto. Speriamo, perché così tutti e due avremo una medaglia. A bordo campo. Le mani sull'oro di Londra e quelle che vuole allungare il sette bello della pallanuoto italiana, campione del mondo in carica, e che quindi va a Londra 2012 con l'onere e l'onore del ruolo di favorito, e sono anche le mani del portiere simbolo di questa squadra che oggi è il nostro ospite qui a Radio 24 e a bordo campo. Benvenuto Stefano Tempesti. Grazie, salve a tutti, grazie mille. Allora Stefano, vista dalla porta, che effetto fa la piscina di Londra 2012? Guarda, la piscina di Londra 2012 per ora l'ho vista solo in video, non ho avuto modo di vederla ancora proprio prettamente dal vivo. È una grande emozione anche solo vederla virtualmente, sono tante le aspettative, come hai detto tu, l'onere e l'onore di affrontare questa competizione da campioni del mondo. Speriamo appunto di mantenere quelle che sono le tante aspettative sul nostro gruppo. Tra l'altro vale la pena ricordare che si torna a Londra, dove nel 1948 nacque la leggenda del Sette Bello e anche il nome stesso, no? È vero, è stato proprio lì che è stata coniata questo nome storico, che poi è rimasto attaccato alla squadra nazionale di pallanuoto. Gli auspici e i presagi ci sono tutte le date, tutto torna e tutto coincide, però appunto sono cose effimere se poi non le applichi in piscina. Sarà una bellissima Olimpiade, consapevoli di tutto quello che saranno le difficoltà nel percorso, consapevoli del fatto che ci vogliono tante cose per arrivare in fondo ad una manifestazione, dalla bravura alla preparazione, un po' di fortuna, deve essere, insomma, tutto, si devono incastrare tanti fattori per poi arrivare fino in fondo. Sono Olimpiadi che tra l'altro ci racconterai anche attraverso il tuo blog, no? Assolutamente, perché questo blog parlerà di me, parlerà di quella che sarà tutta l'esperienza olimpica, a partire dalla preparazione per poi arrivare fino all'Olimpiade, e poi l'Olimpiade stessa, tutte quelle saranno le emozioni che proverò e che alle quali andremo incontro noi come squadra nel corso dell'Olimpiade. Occhio però, perché il CIO vi guarda da vicino su quello che fate sul web. Regole stringenti, ti trovano d'accordo oppure in qualche modo ti senti un po' limitato nella possibilità di raccontare un grande evento che voi atleti vivete in prima persona come l'Olimpiade ai vostri fan, ai vostri tifosi, anche attraverso il web? Ma sicuramente quando si mettono dei limiti non è mai carino e non è mai piacevole, però dobbiamo anche renderci conto che se queste regole ci sono, un motivo c'è, l'ICC è un organismo che appunto ci tutela sotto tanti punti di vista, se mette dei paletti, se mette dei punti fermi su questo punto di vista non possiamo far altro che adeguarci e rispettare quelle che sono le direttive, anche perché sono direttive che valgono per tutti gli atleti che fanno parte dell'Olimpiadi, quindi è giusto rispettarle. Sarebbe bello che non ci fossero né limiti né vincoli, questo come qui come in tutte le cose che facciamo, però se ci sono delle regole è giusto rispettarle. Tra l'altro nell'intreccio tra sport e politica proprio la pallanuoto ha scritto una pagina leggendaria nella storia olimpica, mi riferisco a quella celebre semifinale del 1956, no? Unione Sovietica-Ungheria, che se le danno di santa ragione in acqua mentre i carri armati sovietici entrano a Budapest, sì, infatti quello è stato proprio, si vede che a volte appunto le cose non accadono per caso e lì ci fu proprio questa connessione fra sport e storia, fra sport e politica, è rimasta appunto nelle menti di tutti questa epica battaglia che si giocava sia in piscina che poi per le strade di Budapest. Le cose magari a volte non accadono per caso e è bello sempre ricordarlo, perché è uno dei motivi appunto per il quale magari ci appassioniamo anche allo sport, perché non è solo sport ma riguarda proprio la vita di tutti noi in generale. Parliamo dell'Ungheria e mi viene da pensare che proprio con gli ungheresi andrete a giocarvi quantomeno il podio. Parlaci un po' di questa scuola magiara con cui tante volte incroci le palombelle in acqua. Questa squadra magiara è un po' la fatta da padrone in queste ultime Olimpiadi. Nessuna nazionale mai nella storia era riuscita a vincere addirittura 3 ori olimpici consecutivi. Sfortuna mia, sfortuna per la mia generazione, che ha beccato appunto una generazione di ragazzi che è cresciuta insieme fin da piccoli, e una squadra di assoluti fenomeni nel quale appunto in ogni ruolo c'erano i migliori del mondo e che hanno saputo anche però giocare insieme, perché negli anni tutte le nazionali avevano i migliori in ogni ruolo. La bravura loro è stata quella di riuscire anche a combinare un gioco di squadra che si è rivelato il più forte di tutte nelle manifestazioni olimpiche. Poi per quello che sono stati poi i mondiali, europei e tutte le altre manifestazioni c'è stata un'alternanza di risultati dalla Spagna, l'Italia, il blocco dell'Est l'ha fatto da padrona, Serbia, Montenegro, Croazia in questi ultimi anni, però poi come arrivi alle Olimpiadi ci sono sempre loro che si impongono. Vedremo cosa succederà in questa edizione, perché il livello della pallanuoto è talmente alto in questo momento che tutte le squadre dal primo penso all'ottava possano ambire ad un podio, possano ambire a vincere una medaglia importante. Per questo magari sarà anche un'Olimpiade aperta a qualunque risultato. Ecco, dicevamo appunto Ungheria e poi tu hai citato quelle che saranno probabilmente le vostre avversarie dirette in un cammino che si presenta insidioso fin dal girone eliminatorio. Vogliamo ricordarle un po' queste grandi avversarie? Ma queste grandi avversarie abbiamo su tutte la Croazia, e poi c'era, che per noi sarà una squadra che troveremo nel girone, e poi c'era la mina vagante Montenegro, che non avendo fatto delle grandissime performance nelle manifestazioni precedenti, parlo degli ultimi mondiali, era un po' quella che poteva far spostare gli equilibri. È toccata nell'altro girone, da una parte bene, perché all'inizio magari non la trovi subito, però poi comunque il crocevia sono sempre, come sempre in ogni manifestazione, i quarti di finale. Lì starà la bravura nostra, quella di fare il miglior risultato possibile nel girone per avere il quarto di finale più agevole possibile. Di là la fa da padrona la Serbia, una Serbia che sta giocando benissimo, che ha tanta voglia di riscatto, perché sicuramente non ha digerito la sconfitta ai mondiali di Shanghai, forse si sentivano già la medaglia in tasca una volta vista l'avversaria in finale, che era l'Italia, e che quindi arriverà agguerrita, vorrà dimostrare appunto di poter battere soprattutto l'Ungheria, ma tutte le squadre, per imporsi come vogliono sempre fare loro. Stefano, ti chiedo ancora, Sandro Campagna ha rivitalizzato il Sette Bello Azzurro, che sembrava affogato ai mondiali proprio di Roma del 2009. Un gioco, quello di Campagna, che richiede anche una concentrazione massima, proprio perché non andate a sfidare i campioni dell'Est sul piano fisico, sarebbe estremamente difficile averla meglio, ma attraverso il dinamismo e attraverso la tecnica. Sì, è questo quello che li ha messi più in difficoltà, diciamo, schierarsi, confrontarsi su un piano fisico uno contro uno con questi atleti diventa difficile, perché sono atleti geneticamente strutturati più forti di noi, proprio fin da piccoli. Io mi ricordo gli atleti che incontro ora, fin da piccoli erano già più grossi, più forti di noi. Quello che noi abbiamo magari è un'elasticità mentale, un gioco più dinamico che loro non hanno e che noi cerchiamo di non farli capire. Di improvvisare un gioco che poi però è tutto studiato, che gli possa mettere in difficoltà. Noi dobbiamo per forza buttarla sulla velocità, sul dinamismo, sul cambiare sempre le carte in tavola, perché se facciamo un gioco fisico, un gioco più statico, andiamo a perdere in partenza. A immaginarti oggi Londra 2012, l'Olimpiade, qual è l'immagine appunto che ti viene per prima in mente? Ma guarda, l'immagine che mi viene per prima in mente è la cerimonia d'apertura, perché quella di Pechino è stata un'emozione che non si può cancellare. Sono tutte belle le cerimonie d'apertura, sono tutte belle di tutte le manifestazioni, però quella delle Olimpiadi ha un qualcosa in più, ha un'atmosfera particolare, ci sono tutte delle emozioni diverse in gioco. È la prima cosa quando mi parli di Olimpiadi, per ora, perché ancora siamo in preparazione, ancora dobbiamo arrivarci, la prima cosa che mi viene in mente è comunque sicuramente la cerimonia d'apertura. E allora magari ti candidiamo già al ruolo di portabandiera per Rio 2016, visto che 205 centimetri d'altezza, 97 kg, quell'apertura di braccia, la bandiera tricolore. La vediamo bene. Apposta, dico. Va bene, volentieri. Allora, intanto un grande in bocca al lupo a Stefano Tempesti, portierone del Sette Bello Azzurro della Pallanuoto, che cerca qualcosa di bello e non diciamo cosa a Londra 2012. Grazie per essere stato nostro ospite a Radio 24 e a Bordo Campo. Crepi il lupo, grazie a tutti voi, a presto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il nostro blog e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e il sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.